tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Perquisizioni e un indagato alla Bonatti, l'azienda per la quale lavoravano i due italiani rapiti e uccisi in Libia nel 2015. La visita di Renzi negli Stati Uniti, da Obama il sostegno al referendum e ieri la cena di Stato, ultima del mandato del presidente americano. Mafia Capitale, il presidente del Lazio Zingaretti denuncia Buzzi per calunnia, ancora in primo piano i silenzi della deputata PD Micaela Campana. Nel Partito Democratico dubbi sulla manovra per l'emersione del contante, un pezzo del partito pronto a votare no. Meno uno di un italiano su due ha letto un libro nell'ultimo anno, ma si torna a spendere per la cultura, più 4% nel 2015. Molesta due minorenni al parco, il GIP lo libera, non è di rilevante gravità. Bucano un oleodotto per un furto nel Piacentino, ma gli va male, il gasolio si sparge nelle campagne, non si sa se sia entrato nella falda. Se il tempo per andare in bagno è più lungo del previsto, bisogna timbrare il cartellino, protesta ai lavoratori nell'ASL di Rovigo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura la vicenda degli italiani che furono rapiti e uccisi in Libia un anno fa, sentiamo. Omicidio colposo e violazione della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con queste accuse è indagato Dennis Morson, responsabile dell'impresa Bonatti per le attività logistiche in Libia, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro nel paese nordafricano dei due tecnici italiani Salvatore Failla e Fausto Piano. I due sono morti poi in un conflitto a fuoco nei dintorni di Sabrata. In pratica, secondo l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma, Dennis Morson non avrebbe adottato le misure necessarie per tutelare l'incolumità fisica di Piano e Failla durante il loro trasferimento in Libia. E stamani i carabinieri del ROS antiterrorismo hanno svolto anche una serie di perquisizioni negli uffici della Bonatti a Parma. Nel frattempo ricordiamo che altri due tecnici italiani, Bruno Cacace e Danilo Calonego, rapiti nel sud della Libia lo scorso 20 settembre, sono ancora nelle mani dei sequestratori, un gruppo guidato da un algerino legato ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico, e per il loro rilascio è stato chiesto un riscatto da 4 milioni di euro. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla visita di Renzi negli Stati Uniti e poi la cena di Stato di ieri. Barack Obama ha sottoscritto in pieno la dottrina Renzi, gli ha dato un appoggio sul fronte del referendum con un atteggiamento incondizionato che raramente ho visto in passato nei confronti di un leader italiano, ma ho fatto una domanda chiave al presidente americano. Sentiamo. Ecco, gli chiedo, se il referendum non dovesse andare bene, pensa che Renzi debba restare in carica e continuare con le sue riforme? La risposta di Obama è chiarissima. Io faccio il tifo per il successo nel referendum, ma in ogni caso, Matteo, dovresti rimanere al timone per un po'. Ecco, Obama ha parlato di legacy, di eredità che il nostro Presidente del Consiglio potrebbe portare avanti in Europa anche dopo l'uscita di Barack dalla Casa Bianca. Obama ha puntato soprattutto sulla crescita. È importantissimo cambiare le regole in Europa, dove c'è una stagnazione che ha fatto da embrione ai populismi, ha detto. C'è una generazione perduta per colpa della miopia di politica per l'austerità invece che per la crescita. Prime Minister Matteo Renzi and Mrs. Agnese Landini. C'è tutto, le pacche sulle spalle, i brindisi, le battute, le candele, i cristalli. Davanti a 400 invitati, sotto un tendone nel parco sud della Casa Bianca, Obama brinda all'alleanza duratura tra Stati Uniti e Italia. Il presidente americano abbozza frasi in italiano, cita Virgilio mentre Renzi sfoggia il suo inglese imperfetto ma entusiasta. Tutto per dimostrare che parlano la stessa lingua. Il feeling è palese, ostentato. Una volta ero io quello giovane, ora è lui, dice Obama. Anche Renzi si permette una battuta prendendo in giro l'orto della First Lady, ma suggerendo anche un'ipotesi per il suo futuro presidenziale. Michelle, let me be very frank, your speech are better than your tomatoes. Lo so, Michelle, i tuoi pomodori sono ottimi, ma lasciatelo dire, i tuoi discorsi sono meglio. Qualcuno fa notare che la cena ha anche uno scopo elettorale interno in favore di Hillary Clinton, visto che tra i circa 150 milioni di americani che voteranno ce ne sono almeno una ventina di origini italiane. Ma per Obama Renzi è anche l'antidoto all'austerity in Europa e un prezioso alleato in Iraq e in Libia. Non è un caso se fra brindisi e scherzi Obama chiosa su una battuta che riempie di sfumature la serata. Forgive my accent, patti chiari, amicizia lunga. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente torneremo a parlarne ampiamente in America 24 con Mario Platero. Oggi, tra l'altro, un po' più lunga del solito, inizierà, insomma, poco prima delle 13:45. Abbiamo sentito parlare molto di referendum dagli Stati Uniti. Andiamo al tema del referendum in Italia. Siamo ancora qua, Vincenzo Miglietta, in attesa della sentenza del TAR, no? Sì, buongiorno, è così. In realtà si tratta di un doppio fronte, quello che passa per i tribunali, che potrebbe segnare il destino della campagna referendaria. Da una parte Simone il TAR del Lazio, che dovrebbe esprimersi oggi su ricorso di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, dall'altra il ricorso al Tribunale Civile di Milano del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Unida. In entrambi i casi le parti proponenti contestano il quesito referendario. Per le opposizioni si parla di palese spot in favore del sì, per Unida con l'attuale quesito si sottopongono all'elettore una pluralità di oggetti eterogenei. Fronte del no intanto che si compatta, almeno per quanto riguarda il centrodestra, nelle parole di ieri sera di Berlusconi, una bocciatura decisa del referendum da parte dell'ex cavaliere. Oggi vertice a tre, poi ad Arcore, Berlusconi, Salvini, Meloni, si è convenuto sulla necessità dell'avvio di una fase costituente dopo il referendum. Dal Movimento 5 Stelle si torna intanto sull'appoggio di Obama a Renzi. Di Battista allora commenta: Obama dice sì e l'Italia va in Lettonia, riferendosi ai soldati italiani che nel 2018 saranno dislocati nella Repubblica Baltica. Se vince il no, il governo non cade, ripete però dalla maggioranza Alfano. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. L'altro fronte di queste ore evidentemente è quello della manovra. Si aspettano i rilievi di Bruxelles, critica sul rapporto deficit-PIL al 2,3% indicato dal governo italiano e sulle misure una tantum pari a 7 miliardi circa. Tra queste la tanto discussa Voluntary Disclosure 2. Il testo della legge non c'è ancora, quindi al momento sono solo ipotesi. Come nel 2015, si tratta di regolarizzare la propria posizione col fisco, riportando in loco capitali detenuti all'estero o recuperando quelli nascosti in Italia. Il problema è che questa volta mancano gli incentivi. La Voluntary 1 ha avuto successo per la caduta del segreto bancario svizzero, ci spiega il tributarista Tommaso Di Tanno. Nella Voluntary 1 l'incentivo principale non è venuto dall'azione dell'Agenzia delle Entrate italiana, ma è venuta dalla modifica della legge svizzera. Quindi chi non si sentiva minacciato l'anno scorso e non ha aderito alla Voluntary 1 perché possedeva i capitali in Italia, continua, secondo me, a non sentirsi minacciato neanche oggi. In più le cifre sembrano alte, 35% sull'ammontare, 15% per ogni prelievo, ma sono forfettarie, ci racconta Stefano Noro, commercialista. Soprattutto se la misura della percentuale fosse più verso il 30 che verso il 35, potrebbe permettere di regolarizzare anche gli apporti eseguiti negli anni recenti con un risparmio rispetto alle aliquote e alle sanzioni ordinarie. Gli intermediari esteri stanno dunque iniziando a prendere contatti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fronte di mafia capitale, Zingaretti denuncia Buzzi per calunnia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, chiamato a testimoniare nell'ambito del processo di mafia capitale. Nicola Zingaretti è infatti indagato per corruzione e turbativa d'asta in un procedimento connesso per il quale però la Procura di Roma ha già chiesto l'archiviazione. Ho denunciato Salvatore Buzzi per le calunnie sul mio conto, spiega Zingaretti dopo la decisione di non rispondere nell'aula bunker di Rebibbia, e chiederò io stesso di essere sentito nel processo contro di lui. Zingaretti ricorda che Buzzi, imputato chiave nel processo di mafia capitale, durante le deposizioni in carcere ha accusato lui e altre decine di persone di aver commesso alcuni reati. A Roma, intanto, nel primo pomeriggio è prevista l'audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in commissione parlamentare antimafia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il sostituto procuratore generale Dario Razzi, al termine della requisitoria nel processo per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto di Hashi Omar Hassan, l'unico condannato appunto per questo omicidio. Se è vero che Hassan è stato condannato, dobbiamo avere anche il coraggio di ammettere che possa essere innocente, ha detto il magistrato. La cronaca ci porta in Puglia, dove un bracciante è morto investito da un'auto pirata. stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi, tre cittadini di nazionalità afghana investiti da un'auto pirata. È accaduto lunedì sera sulla strada provinciale Casamassima, Noicattaro, nel sud barese. Il conducente del mezzo che li ha travolti non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce. A soccorrere i tre giovani, tutti con regolare permesso di soggiorno, un altro automobilista. Per uno di loro però non c'è stato nulla da fare. È morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Gli altri due sono ricoverati, uno è in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per identificare il conducente dell'auto pirata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo nel Piacentino adesso, dove dei ladri hanno forato un oleodotto nella notte. Il gasolio si è sversato nelle campagne, migliaia di litri a quanto pare. Siamo in linea con Giuseppe Biasini, che è direttore dell'ARPA del comparto energetico del nodo di Piacenza. Buongiorno Biasini e benvenuto. Buongiorno a lei. Ci dà un quadro della situazione? Quanto gasolio è stato sversato? Che cosa sappiamo adesso? Un dato assolutamente di cui non possiamo disporre. Attendiamo naturalmente il gestore che ci fornisca una prima stima di quanto sia fuoriuscito dall'oleodotto. Il quadro al momento com'è nelle campagne? Il quadro è sotto controllo, nel senso che ci sono già sul posto oltre operatori di ARPA e operatori di ENI che stanno provvedendo in questo momento a mettere in sicurezza l'area, quindi si sta aspirando con dei camion quello che è possibile aspirare e anche a scorticare il terreno palesemente contaminato. C'è un rischio che il gasolio si sia sversato nella falda, sia finito nella falda? Guardi, stiamo appena recuperando le informazioni sull'area e da queste prime informazioni il profilo del terreno ci dice che la falda si trova a 14 metri di profondità, la prima falda superficiale, quindi siamo abbastanza tranquilli, ma ovviamente verranno fatti i controlli del caso per verificare che non ci sia stata una contaminazione. Ultima domanda, Biasini, c'è stato un altro caso simile nel 2014, due anni fa? Purtroppo sì, esatto, bisognerebbe veramente far capire a questa gente che il furto che stanno provocando porta dei danni economici e ambientali molto importanti e significativi. E magari anche incrementare qualche controllo, no? Esatto, magari anche se ovviamente risulta un'operazione abbastanza difficile, ma sicuramente auspicabile, perché rimediare dopo è difficile. La ringrazio, grazie Giuseppe Biasini, direttore dell'ARPA, comparto energetico del nodo di Piacenza. Sicuramente vi aggiorneremo nell'arco della giornata su come stanno andando le cose su quel fronte. Adesso ci occupiamo di cultura e soprattutto delle spese degli italiani per la cultura. Sentiamo. Superata la fase di crisi degli ultimi anni, le famiglie italiane tornano a spendere per la cultura 67,8 miliardi nel 2015, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente, una tendenza che si va consolidando, quella che emerge dall'ultimo rapporto di Federculture. A crescere è anche il numero delle persone che visitano mostre e musei, più 7%, che vanno a teatro, più 4%, e ai concerti, più 6%. Segnali positivi arrivano in particolare dal turismo culturale, costituito per il 60% da stranieri, che cresce del 7% in termini di arrivi. La cultura è tornata ad essere una risorsa per il nostro paese, ma la ripresa del settore va sostenuta, dice il presidente di Federculture Cancellato. Diamo un messaggio positivo per la cultura, ma anche per il paese, perché siccome la spesa culturale non è la prima delle nostre famiglie, il fatto che sia aumentata in modo considerevole, oltre il 6% negli ultimi due anni, ci dà l'idea di un paese che è uscito quindi dalla recessione e spende anche nell'intrattenimento e nella cultura, ed è questo molto importante. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Visto che parliamo di cultura, parliamo di uno spicchio di questa cultura che è il cinema, la festa del cinema di Roma. C'è la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, buongiorno, ciao, che ci racconti oggi? Buongiorno, beh, oggi tra passato e presente qui alla festa del cinema di Roma, tra proiezioni all'auditorium dove mi trovo in questo momento, ma anche eventi per la città. Ieri sera l'omaggio a Gregory Peck, una proiezione speciale di Vacanze Romane sulla scalinata di Piazza di Spagna, quindi perfetto. Ieri Gregory Peck avrebbe compiuto 100 anni, c'erano anche i figli Cecilia e Anthony Peck. Questa mattina invece è inaugurata la mostra Gillo, cinema, utopie, battaglie e passioni di Gillo Pontecorvo al Teatro dei Dioscuri e al Quirinale fino all'11 dicembre. Invece i film della selezione ufficiale oggi, beh, si parla della storia molto attuale di una ragazza di origine pakistana di 18 anni, molto legata alla sua famiglia, poi i suoi genitori le chiedono di seguire la tradizione, scegliersi un marito, insomma una storia molto molto attuale in questo Not a Wedding di Stefan Strecker. E poi c'è anche uno dei film italiani nella selezione ufficiale, presentato questa mattina, Maria per Roma, opera prima di Karen Di Porto, ecco una sorta di unione tra Nanni Moretti, Pranzo di Ferragosto, Gig Robot, insomma la storia di una aspirante attrice poco più che trentenne che deve barcamenarsi tra impegni assurdi e un lavoro che non lascia scampo per inseguire il suo sogno di recitare. È un film che o ami o odi, ma che è davvero una sorpresa. Ti ringrazio, grazie alla nostra Marta Cagnola che continuerà naturalmente a farci cronache da questa festa del cinema di Roma. Per chiudere una notizia, per chiudere questa prima parte, una notizia che ci riguarda: la Consob ha avviato questa mattina a Milano un'ispezione presso il gruppo 24 ore dopo l'esposto presentato nelle settimane scorse da un'associazione di consumatori. Il gruppo 24 ore commenta: massima trasparenza, massima tranquillità, massima collaborazione, siamo un libro aperto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e inizieremo da Rivalta, la provincia di Torino, dove c'è una decisione di un GIP che farà sicuramente discutere. Un uomo di 36 anni di origine rumena ha molestato due ragazzine in un parco pubblico, una ragazzina di 14 anni e una ragazzina di 15 anni. Ebbene, il GIP ha deciso di lasciarlo libero perché il fatto, tra le altre cose, dice non è di grave entità. Ne parleremo col sindaco di Rivalta tra un attimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle perquisizioni dell'indagato alla Bonatti, l'azienda per la quale lavoravano i due italiani rapiti e uccisi in Libia, abbiamo parlato della visita di Renzi negli Stati Uniti, abbiamo parlato di Mafia Capitale e della denuncia di Zingaretti a Buzzi, abbiamo parlato della cosiddetta Voluntary Disclosure 2 e invece non abbiamo parlato, lo dico all'ascoltatore che ci ha scritto riempendoci di insulti, dei dati arrivati dall'INPS sui contratti e sul precariato, semplicemente perché sono dati di ieri, ce ne siamo occupati ieri, l'abbiamo messo nei titoli, ne abbiamo parlato tutto il giorno di ieri, sono stati anche nei GR di questa mattina e quindi non è che, come dire, possiamo ritornare sugli stessi dati di ieri. Ci occupiamo adesso nel nostro giro per l'Italia, iniziamo dalla provincia di Torino, a due passi da Torino, in realtà a Rivalta, dove la notizia è questa: un uomo di 36 anni, di origine rumena, va in un parco ad Esca. Così scrivono le cronache, in realtà va da due ragazze di 15 e 14 anni, le molesta, prova a baciarle, viene arrestato immediatamente perché le due ragazze scosse tornano a casa, dicono la cosa ai genitori, i genitori denunciano, quest'uomo viene arrestato, il PM chiede che quest'uomo venga messo in carcere e il GIP decide di liberarlo. Tra le altre cose dice: incensurato, il fatto seppure increscioso non appare di rilevante gravità. Mauro Marinari, sindaco di Rivalta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Da dire che abbiamo cercato naturalmente il GIP, il PM, ovviamente sono in udienza, hanno da lavorare, non siamo riusciti a raggiungerli. Vogliamo farci raccontare un po' da lei qual è la situazione e che cosa ne sa, sindaco? Ma non so più di tanto, nel senso che ho avuto delle notizie dal comandante della caserma dei Carabinieri di Orbassano, da cui dipende Rivalta. Mi ha raccontato esattamente la stessa cosa che hanno riportato poi i giornali di questo fatto successo il 12 di ottobre qui in una piazza di Rivalta dove c'erano delle giostre per la festa del patrono e c'è stato questo episodio di molestia anche pesante sembra, e questo è quello che a cui insomma ho avuto come notizia. E è chiaro che la decisione del GIP mi sorprende abbastanza. È perché c'è un problema. Questa persona continuerà a girare là da voi, suppongo. Non lo so. Allora, lui era, dicono, un diciamo collaboratore del Giostrai che era in questo momento a Rivalta, in quel momento a Rivalta. Per cui non penso che ritorni nello stesso luogo. Ma il problema è peggio mi sento, perché girerà coi Giostrai e certo. Chissà che succede. Insomma, comunque sì, prego. Certo. No, dicevo che il problema di fondo è il discorso della percezione, della sicurezza o insicurezza dei cittadini. Noi abbiamo già una serie di problemi collegati al fatto che nel nostro paese, che sono 20.000 abitanti, non c'è una caserma dei carabinieri. Quella più vicina è un paese vicino che ha un'area molto vasta di controllo. Abbiamo un aumento, ma non solo noi, ma in generale anche dovuto alla crisi, di microcriminalità, furti nelle case, truffe, eccetera. C'è spesso questa situazione in cui si arrestano i criminali e dopo qualche giorno sono in libertà. E questo episodio dà di nuovo una sensazione di insicurezza e chiaramente un po' di paura, insomma, da parte della cittadinanza. E questo non aiuta certo anche noi come amministratori locali, insomma, sì, certo. Di fare il massimo per dare un pochino più di garanzie rispetto al controllo del territorio. È chiaro che poi se succede che un GIP decide, poi per carità c'è la magistratura che decide e che ha la sua autonomia. Però dal punto di vista del sentimento popolare, chiaramente questa situazione è un po' pesante. Sì, qualche perplessità l'ha suscitata anche a noi, che spesso non siamo interpreti del sentimento popolare. Questo è. La ringrazio. Grazie a Mauro Marinari, sindaco di Rivalta, per essere stato con noi. Una storia nel nostro giro per l'Italia ci porta, in realtà siamo stati già a Rovigo ieri, però ci ritorniamo perché c'è una vicenda che ci ha colpito e che abbiamo trovato interessante, che riguarda ancora una volta il tema del pubblico impiego. Parliamo dell'unità sanitaria locale 18 di Rovigo, dove sono stati introdotti dei controlli abbastanza stretti sui dipendenti dal punto di vista di quanto e come devono timbrare il cartellino. Tra i titoli che leggiamo dal giornale online rovigooggi.it, i dipendenti dicono: sorvegliati anche mentre facciamo pipì, dobbiamo timbrare anche quando andiamo a fare pipì. Il direttore generale della USL di Rovigo è con noi, è Antonio Compostella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, ma davvero li fate timbrare quando fanno pipì? Guardi, allora, parafrasando Shakespeare, si potrebbe dire che tanto rumore per nulla, nel senso che c'è una normativa, quella nota a tutti, sui cosiddetti furbetti del cartellino, decreto legislativo 116 in vigore da luglio, che ha inasprito le sanzioni per coloro che compiono abusi rispetto ai doveri per quanto riguarda la timbratura del cartellino. È stato fatto un corso di formazione rivolto in particolare a dirigenti e responsabili, sì, per spiegare quali sono le novità. Da questo corso di formazione sembra che si sia così proprio dispiegata, emanata una sorta di terrore relativamente al fatto che noi avremmo impedito alle persone la cosiddetta pausa caffè, perché poi tutto il problema, sì, si risolve nella cosiddetta pausa caffè, e quindi tutta una coloritura da parte dei rappresentanti sindacali e non tanto allora ho capito la premessa, però lei mi deve rispondere alla domanda: questi devono, sì, timbrare per andare a far pipì oppure no? No, assolutamente, no. Nel senso che allora il contratto collettivo del pubblico impiego non prevede pause caffè, non prevede assenze o quant'altro. Diciamo che il codice di comportamento dell'azienda ULS 18, che è un documento che nasce dalle norme che è stato redatto negli anni scorsi su, sì, misura locale, prevede la cosiddetta pausa caffè, però, sì, il dipendente deve informare il responsabile se si assenta, assentarsi il più brevemente possibile, recarsi al punto di ristoro più vicino, cioè norme di buon senso. Tutto, sì, nasce dall'interpretazione del buon senso. Quindi è stato solo detto ai dirigenti responsabili delle singole unità operative, dei singoli servizi: la normativa prevede una responsabilità vostra sul buon funzionamento dell'attività e quindi anche sull'assentarsi dal luogo del lavoro dei vostri collaboratori. Okay. Il concetto quindi, di mi scusi per tornare alla brutale cosa. La questione è la durata della pipì o della pausa caffè, cioè non è tanto... Allora, no. La questione di buon senso è che se una persona si assenta dal suo luogo di lavoro, che vuol dire soprattutto nell'area magari tecnico-amministrativa, perché il turnista che è in reparto non può proprio fisicamente, praticamente, funzionalmente assentarsi e che eventualmente un caffè se lo beve nella tisaneria, nella stanza che c'è, va bene. Allora, se una persona si assenta e dice vado a prendere un caffè e pensa di che questo caffè duri mezz'ora, deve timbrare, ma se il caffè è una pausa breve, come si dice, se va in bagno, 5 minuti, nessuno l'ha obbligato a firmare. Brevemente, Composella, quindi perché ieri, perché 200 dipendenti in assemblea hanno protestato allora? Perché io l'ho riassunta in maniera, se vuole, brutale, una tempesta in un bicchiere d'acqua, tanto rumore per nulla, perché stiamo parlando di norme che sono sancite, no, dalla norme per la pubblica amministrazione, che non ho inventato io, e semplicemente perché è stato richiamato nell'applicazione di queste norme al ruolo, all'importanza dei dirigenti nel controllare che le cose si svolgano correttamente e ad una applicazione di buon senso. Tutto qui, cioè praticamente non c'è né vessazione né controlli esasperati, assurdi. Ripeto, okay. La coloritura dei termini va bene finché si parla tra due persone così. Quando sono atti ufficiali sono assolutamente fuori luogo. La ringrazio. Grazie Antonio Compostella, direttore generale dell'azienda ULS 18 di Rovigo. Voglio dire anche ad un ascoltatore che ci ha scritto, a proposito della vicenda che abbiamo raccontato poco fa, ci ha scritto al 349-238-6666 su WhatsApp, qua non si alimenta la xenofobia. La vicenda che abbiamo raccontato poco fa, quella del jeep che libera un uomo che ha molestato due ragazzine, non ha a che fare col fatto che sia rumeno o sia italiano, ha a che fare col fatto che uno che molesta due ragazzine, come dire, bisognerebbe prestarci forse un filo più di attenzione. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a Piacenza. Ve l'avevo promesso ieri, per la vicenda delle truffe dei minori non accompagnati. C'è un assessore di Piacenza che addirittura l'ha presi e l'ha portati al consolato albanese di Milano e poi l'hanno cacciato dal consolato albanese di Milano. Parliamo con lui, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: nel Partito Democratico ci sono dubbi sulla norma per l'emersione del contante, la minoranza dice cambi o la cambierà il Parlamento. Perquisizione, un indagato alla Bonatti, l'azienda per la quale lavoravano i due italiani rapiti e uccisi in Libia nel 2015. La visita di Renzi negli Stati Uniti, da Obama il sostegno al referendum e ieri la cena di Stato, ultima del mandato del presidente americano. Mafia Capitale, il presidente del Lazio Zingaretti denuncia Buzzi per calunnie e ancora in primo piano i silenzi della deputata del PD, Micaela Campana. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo nel nostro giro per l'Italia, torniamo a Piacenza. Ci siamo stati nella prima parte della trasmissione per raccontarvi di questo sversamento di gasolio che c'è stato nelle campagne. Adesso torniamo invece per occuparci di una vicenda alla quale vi accennavamo ieri. Abbiamo parlato ieri con la vice sindaca di Rimini su questa vicenda delle truffe che stanno avvenendo ai danni dei comuni. Che cosa succede? Ci sono delle persone, spesso si tratta di albanesi, genitori che portano i figli in Italia, magari passando dalla Grecia, e poi se ne tornano nel loro paese. I figli minori risultano come minori non accompagnati e il comune se ne deve fare carico. In sostanza questi ragazzi fanno le scuole in Italia, godono di tutta l'assistenza della quale godono i minori non accompagnati, anche se i genitori hanno un lavoro in Albania. Nelle settimane scorse l'assessore al welfare e al sostegno delle famiglie del comune pure di Piacenza Stefano Cogini, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha provato con la macchina a riportarli al consolato albanese, ho capito bene? Sì, più o meno è andata così, era un pulmino perché erano 6 ragazzi, però sì, ho fatto questa cosa. Ha fatto questa cosa e qual è stato il risultato? Il risultato è stato che dopo 7 ore di trattativa uno stato sovrano come l'Albania, e quindi la persona del suo console, ha pensato bene di chiamare la polizia e la Digos perché c'era un funzionario italiano nella mia persona che stava recando disturbo, e quindi mi hanno sostanzialmente riconsegnato i minori e mi hanno fatto uscire dal consolato. Quindi il consolato albanese l'ha definito un molestatore dello stesso consolato, sostanzialmente. Il consolato albanese ha rifiutato di farsi carico di suoi connazionali, anzi mi ha in via più o meno indiretta mi ha fatto capire che se avevo dei problemi li potevo anche lasciare in mezzo a una strada, perché mi hanno detto apertamente che li trattiamo troppo bene e quindi è per quello che vengono. E niente, quindi me li ha riconsegnati dicendo che loro non sono competenti a trattare la questione. E quindi non se li sarebbero presi in carico. Quindi se li è no. Ricaricati sul pulmino e li ha riportati a Piacenza. Abbiamo dato un quadro generale, per quanto possibile, dalle notizie frammentarie che arrivano soprattutto dall'Emilia Romagna in queste ore su questa vicenda. Il sindaco di Faenza che addirittura ha fatto partire delle denunce. Rimini, dove questi casi sono al momento una quarantina. C'è stata un'inchiesta che ha riguardato Forlì e che ha portato a 66 denunce. In che situazione siete voi? Ma noi siamo in una situazione in cui da settembre, da quando ho fatto questo blitz al consolato albanese, ne sono arrivati altri 14 di ragazzi, abbiamo circa 65 arrivi dall'inizio dell'anno, e quello che tecnicamente viene definito dato di flusso, quindi tutti i ragazzi albanesi, sto parlando, che abbiamo in carico, quindi tra quelli nuovi e quelli che arrivano, che nel 2016 mi dice di 144 ragazzi in custodia. 144 in custodia, sì. E quanti di questi sono, per così dire, sospetti, come li ha definiti ieri la vice sindaca Rimini, sedicenti minori non accompagnati? Ma questo, il numero che io ho dato è quello degli albanesi. Ah, quindi, 140, ok. Esatto, quindi tolto qualche caso in cui effettivamente si riscontra che ci sia necessità di presa in carico, per il resto direi che stiamo parlando di ragazzi che sono venuti impropriamente a fare l'Erasmus in Emilia Romagna. Sostanzialmente un Erasmus. Cosa dice la prefettura? Immagino nulla, perché poi i minori non accompagnati ricadono quasi esclusivamente sotto il vostro, no? Sotto i vostri servizi sociali e via dicendo, no? Assolutamente sì. Io con i colleghi della regione parlo sempre di enti locali come l'ultimo livello, quello che resta col sereno in mano, perché questi ragazzi si presentano o in questura o direttamente alla porta dei servizi sociali, e da quel punto la tutela sostanzialmente passa in carico ai comuni e ai servizi sociali. Io vorrei chiarire però un tema: Piacenza, così come l'Emilia Romagna, siamo assolutamente d'accordo alla presa in carico dei ragazzi bisognosi, perché la tutela della minorità è un tema sulla quale non si può discutere, quindi non vorrei, perché i fraintendimenti sono molto semplici su questi ragionamenti. Il punto è che oggi c'è uno Stato, nello specifico che è lo Stato albanese, che ha capito quali sono le falle di una normativa italiana e di fatto sta approfittando di queste falle. Ma voi avete sollevato, mi scusi cugini, dato che io inizio a sentire una serie di amministratori locali che hanno questo problema, anche di comuni importanti come Piacenza, come la stessa Rimini, avete sollevato questo problema a livello nazionale, magari parlando con la Farnesina, col Ministero degli Esteri? D'altro che sì, è un po' che ne stiamo parlando. Per il momento però i risultati sono pochi, sono scarsi. D'altronde, se avessimo avuto dei risultati più concreti con il dialogo, un amministratore quale sono io di una piccola città non avrebbe avuto la pensata di caricare dei ragazzi e fare un blitz a un consolato straniero. Certo, evidentemente è stata chiaramente anche un'azione di protesta, per così dire, abbastanza plateale. La ringrazio, grazie a Stefano Cugini, assessore al sostegno alle famiglie e ai servizi sociali del Comune di Piacenza, che ci consente di tenere un filo su questa vicenda che, a prescindere da tutto, ci sembra interessante. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire Mario Platero. Oggi lo diamo con un po' di anticipo perché appunto ieri è stata la giornata della visita del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti, parecchie cose da raccontare al nostro Mario Platero. oggi, ovviamente dopo il traffico. Noi ci risentiamo alla fine per i saluti.